uno sguardo che rompe il silenzio, uno sguardo ha detto ciò che penso, uno sguardo. Prego non fermarti proprio adesso, perché dopo non si può.